Italia in controluce. E il 2 ottobre in conduzione Daniele Biacchesi per questa nuova puntata di Italia in controluce, l'approfondimento del nostro giornale radio. Molti la chiedono attraverso le raccolte firme, ma i partiti non la vogliono. È la legge della discordia, quella che dovrebbe inserire nuove regole per combattere la dilagante corruzione in Italia. Tutto accade mentre una ricerca commissionata da Libera, avviso pubblico, Legambiente conferma: al 12% degli italiani è stata richiesta una tangente, un italiano su 9, tanto, troppo. E voi che cosa pensate? Ci vuole una legge anticorruzione nel nostro paese? I messaggi SMS al 349 238 6666. Buongiorno al senatore dell'IDV responsabile della giustizia Luigi Ligotti. Buongiorno. Sentiamo insieme il servizio di Valeria De Rosa. Il disegno di legge in questione era tra le priorità del governo Monti, apparso e scomparso più volte dal dibattito pubblico a seconda di quanto mordeva la crisi. Oggi ha assunto la stessa importanza dei provvedimenti, quanto mai attesi e non ancora del tutto svelati, per la crescita. Lo scandalo della Regione Lazio e a catena la scoperta degli altarini in molte altre regioni hanno messo i partiti nella condizione di non poter più rinviare. Ma il DDL è arrivato prima di Monti. Sono oltre 2 anni che se ne parla e se ne discute, in modo anche molto acceso. In origine il disegno di legge approvato dal Senato era stato presentato da 5 ministri del precedente governo, Alfano, Maroni, Bossi, Calderoli e Brunetta. Prevedeva di assegnare molti poteri a un'apposita commissione che doveva stendere piani e relazioni periodiche con provvedimenti per la lotta alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche. Il DDL prevedeva poi linee guida per la trasparenza delle attività delle amministrazioni, un inasprimento delle pene e incentivi e garanzie per coloro che denunciavano episodi di corruzione. Gli emendamenti già discussi e da discutere si sono poi moltiplicati. Il ministro Severino ha affermato che l'impianto è ormai quello definitivo, ben vengano i miglioramenti ma no alle soppressioni. Negli ultimi giorni è arrivato anche l'emendamento anti-Batman, quello che prevede il carcere da 2 a 6 anni per il pubblico ufficiale che utilizza contributi politici indebitamente per finalità diverse o se ne appropria. Ma tra le pieghe dei faldoni ce ne sono anche 3, a firma PDL, ribattezzati anti-rubi. In pratica si chiede di restringere il campo della concussione, considerare la sola utilità patrimoniale, sostituire il termine indebitamente con illecitamente e sostituire il verbo indurre con determinare. Oltre tutte le polemiche innescate nel presente e nel passato, è un fatto che la corruzione costa. 10 miliardi di PIL in meno all'anno, secondo il dossier di Libera, Legambiente e Avviso Pubblico. Anche la Corte dei Conti ha più volte sottolineato che i costi della corruzione sono altissimi. Non saranno quei 60 miliardi, di cui tutti parlano in questi giorni, visto che per tutta l'Unione Europea si parla di 120 miliardi. Ma sempre di miliardi parliamo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La discussione in commissione è accesa anche perché, come avete sentito nel nostro servizio, sono spuntati questi 3 emendamenti ribattezzati anti-rubi. Valeria De Rosa ha intervistato poco fa il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il PDellino, Filippo Berselli. Io gli emendamenti, le confesso, non li ho neanche guardati perché io non sono il relatore. Ho presentato 3 emendamenti, 2 a mia prima firma e uno che aveva la prima firma, se non sbaglio, di Quagliariello. E Quagliariello è l'anti-Batman. Io ho presentato 2 emendamenti, uno per sopprimere per eliminare il reato di traffico di influenze illecite, l'altro sulla corruzione tra privati, in cui propongo la procedibilità a querela. Io di questi emendamenti non lo so, non so neanche che sorte verrà riservata loro in commissione. Sono 2 dei tanti emendamenti che sono stati presentati. Forse, diciamo, l'intento più che quello di farli approvare è quello di pungolare un po' il governo, di metterlo un po' alle corde? Non lo so, deve chiedere a chi ha presentato gli emendamenti. Però anche quelli che portano la sua firma vanno a toccare proprio degli argomenti che il ministro Severino in particolare aveva posto come punti fermi, perché il traffico di influenze illecite. No, guardi, ho parlato con il ministro Severino lungamente, credo che i miei emendamenti verranno presi in considerazione. Io propongo la possibilità a querela per reati di corruzione tra privati. Io mi auguro che il ministro Severino venga incontro, magari eventualmente prevedendo delle eccezioni laddove io non so quali possono essere e laddove c'è un particolare interesse pubblico. I vostri sms al 349 238 6666, a cui abbiamo chiesto se serve in Italia una legge anticorruzione. Un nostro ascoltatore dice: abbiamo una classe politica indegna, certo che serve una legge severa, efficace, molto seria, non una cavolata all'italiana. Damiano da Bologna ci dice che non solo serve, ma soprattutto andrà fatta rispettare. Enrico da Verona si chiede come si può fare una legge anticorruzione se la devono poi votare i corrotti. Qualcun altro parla addirittura di pena di morte anche per i parenti dei corrotti, altro che referendum. Un altro, Paolo, dice che è incivile e scandaloso solo il fatto che si perda tempo nel legiferare inserendo sanzioni pesantissime. Il tema è caldissimo. Un altro si chiede che ci vuole solo la fiducia per far passare l'intero pacchetto. Un altro: perché non chiedete come mai il punto di rimente per il PDL, la corruzione tra i privati? Ma perché qualcuno fa problemi, Marco da Milano? Allora, senatore Luigi Ligotti, che è responsabile della giustizia dell'Italia dei Valori, che idea si è fatto? Ci vuole o non ci vuole? E che legge ci vuole? Ma noi stiamo inseguendo questa speranza di introdurre delle modifiche all'attuale normativa contro i reati che offendono la pubblica amministrazione e altro nel mercato, ma dal 2008. Poi il governo è intervenuto con un proprio disegno di legge nel 2010, ma è dal 2008 che ne parliamo, dal giugno, quindi sono oltre 4 anni. Ma c'è qualcuno che non la vuole al di là degli schieramenti politici? Non pensa che anche qualcuno, per esempio, che predica bene razzola malissimo poi dalle parti del Parlamento non voglia fino in fondo una legge? Parlo anche, per esempio, di suoi alleati. Ma voglio dire, sicuramente quando un disegno di legge viene presentato impiega tanto tempo per riuscire a vedere la luce, ci sono evidentemente degli ostacoli. Ma le pensi la faccia che... i nomi, Ligotti. Voglio dire, il Partito Democratico vuole, secondo lei, tanto per capirci, il Partito Democratico vuole questa legge anticorruzione oppure no? Guardi, con il Partito Democratico noi lavoriamo come gruppo abbastanza in sintonia e siamo sulle medesime posizioni, quindi abbiamo insistito. Casini vuole la legge anticorruzione, però no? Sì, non ho visto in commissione delle ostilità. Il problema è che non ha camminato, nel senso che se si fanno degli ordini del giorno che prevedono la discussione di 40 disegni di legge, perché così accade, poi alla fine quando noi andiamo in commissione, e le commissioni si fanno negli intervalli tra l'aula della mattina e l'aula del pomeriggio, ovviamente se ne discute uno e gli altri vengono accantonati. Anna Lidia Rezzara da Vicenza dice che è fondamentale una legge semplice, chiara, rigorosa, che impedisca il vergognoso utilizzo di denaro pubblico di cui sentiamo. Ma ci vuole una legge contro i ladri? Questo è il punto interrogativo. Senta con noi Don Ciotti di Libera, il primo firmatario di questo appello perché venga approvato più presto una legge sulla corruzione in Italia. Questo è il momento di dire che non si possono prendere scorciatoie. Qui c'è in gioco veramente la democrazia del nostro paese. La democrazia è in ostaggio della corruzione, dei furbi, delle lobby, di quelli che hanno giochi e hanno interessi in tutto questo. Non voglio sentire parlare di mediazioni, non sono possibili sull'evasione, sul riciclaggio, nel contrasto alla criminalità nelle sue varie forme. Abbiamo pochi secondi, una domanda e una risposta brevissima, Ligotti. Un'ascoltatrice, Paola, credo da Vicenza, dice: sappiamo bene che Berlusconi non vuole la legge, perché non lo dite chiaramente? Allora, è Berlusconi che non vuole la legge? Non è che Berlusconi non vuole la legge, vuole. Chiaramente le linee sono abbassamento delle pene, non toccare il problema della prescrizione, che è un problema gravissimo perché muoiono i processi, e non vuole l'inserimento dei nuovi reati che sono previsti dalla Convenzione di Strasburgo, tutto qua. E poi se ci può, prova ad inserire anche qualche norma che gli può fare comodo. Grazie Li Gotti, ringrazio naturalmente Valeria De Rosa in redazione. Vi ricordo Facebook, pagina, gruppo, la nostra mail contoluce@radio24.it. Ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che ci hanno inviato gli sms. L'appuntamento domani 3 ottobre, Contoluce, Radio 24.